Alessia, Samba Band, che cos'è Neurogreen? Ma Neurogreen penso sia un gruppo che cerca di aprire gli occhi sull'ambiente, sulle catastrofi imminenti se l'uomo non inizia a pensare in tempo breve. La Samba Band è Pink Block. Che cos'è? È un gruppo che cerca di muovere la gente in modo creativo, di fare politica in modo creativo e quindi di portare una modalità di vita in strada e di comunicare alla gente un modo alternativo di vivere e di interessarsi alla politica. Quando nasce Pink Block? Beh, originariamente nasce a Praga, però a Torino è nato il 30 novembre del 2002. Come si combina questa vena catastrofista in Neurogreen stasera con l'anima creativa e gioiosa di Samba Band? Beh, sono due cose che si possono avvicinare, nel senso che la modalità Neurogreen, che non è ancora ben precisata neanche per gli stessi Neurogreen, può avvicinarsi alla modalità Pink di muoversi. Loro mi sembrano persone che non vogliono fare politica nel modo normale o comunque tradizionale, sì, che è sparso in giro per l'Italia, ma infatti hanno chiesto a noi, cioè ci siamo chiesti a vicenda di collaborare perché ci sentiamo più o meno affini o comunque abbiamo voglia di provare a fare qualcosa insieme. E invece 5-8 marzo, con quei giorni lì, insomma, che cosa succede a Torino? Ci sarà una parata pink, green, diritti civili, diritti ambientali. Cosa si rivendica in particolare? Transgender? Sì, anche, tante cose. Penso che siano proprio tanti temi che cercano di convergere in quei giorni lì. In particolare si è scelta la data per la vicinanza con l'8 marzo, quindi sessualità libera, diritti civili, diritti delle donne, anche precariato femminile, tutta una serie di cose. Grazie. Prego.